Cerchiamo di dare un senso e una continuità a questi incontri che abbiamo chiamato scritture e movimenti, scritture senza movimenti. Il primo incontro abbiamo presentato il libro di Alberto Prunetti, Non è un pranzo di gala, e quello di Alberto Sebastiani, Alberto Sebastiani ha presentato Le strade di Alphaville, che è la raccolta di saggi di Valerio Evangelisti, che è stata pubblicata un annetto fa, molto interessante. E, fra l'altro, questa non so come chiamarla, rassegna, insomma, che avrà una continuità. Per esempio, il 12 maggio presenteremo all'interno della festa di Redacta, presenteremo Untori di Gennaro Ascione. Era nata questa idea di scrittura e movimento, era nata ovviamente con la ripubblicazione del libro di Bifo, Scrittura e Movimento, un libro di mezzo secolo fa, che però, insomma, cercava di riprendere le cose migliori del surrealismo più politico e del futurismo russo più politico, cercando di saltare, diciamo, le neo-avanguardie degli anni 60 per mettere assieme sensibilità politica e scrittura. E, è un po' il percorso che ha cercato, secondo me, di fare Valerio Evangelisti. Tenere assieme questa sensibilità per la scrittura, per l'invenzione, per l'immaginario e per la trasformazione sociale e politica. Il libro di oggi è L'insurrezione immaginaria, un libro dedicato a Valerio Evangelisti, che è stato curato da Sandro Moiso, che è qui con me, e Alberto Sebastiani, che appunto aveva partecipato al primo incontro e che è il massimo esperto dell'opera letteraria di Valerio Evangelisti. Con noi abbiamo una delle scrittrici di fantascienza, scrittore, scrittrici più importanti d'Italia, Nicoletta Valorani. Il suo ultimo romanzo è meraviglioso, veramente. A iniziare dal titolo, Noi siamo campo di battaglia, pubblicato qualche mese fa da una piccola casa editrice, Zona 42. Fra l'altro Alberto Sebastiani ci aveva sollecitato a coinvolgerti perché ci raccontava che avevi detto delle cose molto importanti, interessanti a una trasmissione della Radio Svizzera, se non sbaglio. Sandro Moiso, che qui al Conchetta insomma lo conosciamo per aver presentato vari libri da più di un decennio, che scrivono qui, si occupa di letteratura, cultura, musica americana e di critica del presente e delle sue guerre, e da una decina di anni soprattutto fa parte della redazione di Carmilla Online. Inizierei da lui. Il libro è interessante perché non è un libro di memorie o di celebrativo di Valerio Evangelisti, ma cerca di andare sulla complessità della ricerca di Valerio Evangelisti, cercando di sviscerare piano su piano le varie componenti, e quindi i vari saggi che si alternano danno una visione sia dalla ricerca di Valerio Evangelisti, ma in qualche maniera rilanciano anche ad avere attenzione per l'immaginario e la scrittura, la cultura e l'azione politica tenute assieme, proprio per e quindi ci danno delle indicazioni per agire sul presente. Quindi non è un libro solo sull'opera di Valerio Evangelisti, ma è una riflessione a partire dalla complessità dell'opera e della vita di Valerio. Lascio la parola a Sandro e poi a Nicoletta. Grazie Mark, grazie a tutti gli intervenuti e alla libreria per aver organizzato questo incontro. Ho la voce un po' bassa e dovete scusarmi. Allora, Valerio Evangelisti. Valerio Evangelisti è innanzitutto un militante. Lo scriviamo sulla copertina dicendo Valerio Evangelisti, autore militante teorico della paraletteratura. Perché autore militante? Perché ha una doppia figura militante, cerco di spiegarlo nell'introduzione al libro, sia come militante politico per la sua storia personale, simile a molti di coloro che sono nati negli anni 50 e hanno attraversato i movimenti degli anni 60-70, fino alla sua morte lui è stato sempre un militante politico, militante di una causa. E dall'altra però anche militante della letteratura, ma di un genere particolare di letteratura, della paraletteratura, cioè della letteratura di genere. Una militanza da parte di Valerio rivendicata fin da quando si era inventato prima la Carmilla cartacea e poi la Carmilla online, che purtroppo quest'anno ha compiuto 20 anni senza Valerio, perché era nata nel gennaio del 2003. Perché militante della paraletteratura? Perché vedeva nella paraletteratura, nella letteratura di genere, nella fantascienza, lui non amava molto il termine fantasy, difatti ne parlo un po' nell'introduzione dicendo a volte si definisce fantasy, ma altre volte dice no, io non ho niente a che fare con questo, con questa cosa. Però la fantascienza, il noir, no? Erano strumenti attraverso cui si poteva, si può, non solo intaccare l'immaginario dominante, ma molto spesso scardinarlo. Dice Valerio, c'è una tale corrispondenza tra lettore e lettura all'interno della letteratura di genere, o se volete di sottogenere, da far sì che questa cosa, se fatta in maniera cosciente dall'autore, può diventare un'autentica bomba. È qualcosa che proprio il sistema non può digerire. No? E dice anche perché? Perché in realtà c'è una critica così sciocca, così attenta alla letteratura mainstream e altre cose, che si occupa o non si occupa, oppure si occupa in maniera superficiale della letteratura di genere, e quindi in questo modo lascia libero l'autore bravo di dire quello che vuole. Io devo dirlo, ho intensamente voluto questo libro, poi ne ho preparato, ne ho proposto la cura anche Alberto Sebastiani, e non per nulla, proprio per far capire il personaggio Valerio, metto in esergo l'introduzione, una sua affermazione piuttosto forte. Di solito chi mi denigra come autore poco complesso. Temo di essere tra i più complessi che esistano, però lo scopriranno solo dopo che sarò morto. E questo volume ha voluto essere questa cosa qui, essere una riflessione collettiva fatta da persone che in gran parte lavorano a Carmilla, ma altri due no, Sebastiani non è un membro di Carmilla e nemmeno Diego Gabutti, che firma un appendice, gli altri 9 redattori, compreso il sottoscritto, arrivano da Carmilla, che senza essersi messi d'accordo non abbiamo stabilito un piano, ma abbiamo detto dobbiamo parlare dei vari aspetti di Carmilla, di Valerio, le infinite sfaccettature riscontrabili in lui come persona e in lui come scrittore. Quindi non ci interessa la memorialistica, non ci interessa il ricordo funebre spesso che viene fatto dei personaggi celebri che vengono a mancare. E questa cosa qui ha fatto sì che siano nati una serie di saggi che si occupano della figura dell'eroe nell'opera di Evangelisti, dello spazio delle navi pirata e cosa rappresenta all'interno sempre dell'opera di Valerio. Sebastiani si è occupato della parte comica e umoristica della sua opera, Nico Gallo della novità rappresentata da Valerio all'interno, riassumo un po' tutti e poi lascerò la parola a Nicoletta, nello spazio fantastico fantascientifico italiano, quando Valerio è comparso questo spazio era ampiamente dominato da una certa critica, da un certo mondo di destra che Valerio è riuscito a ribaltare, a sfidare, no? Poi abbiamo uno scritto di Gioacchino Toni sulla funzione storica anche degli scritti di Valerio, specificatamente quelli comparsi su Carmilla, che riguardavano la storia della sua regione, l'Emilia-Romagna, dall'Ottocento fino ai moti degli anni 80 e 90 e successivi. Un altro saggio di Franco Pezzini mette in relazione Valerio, la figura del razionalissimo inquisitore Aimeric, con gli stregoni, ovvero con le storie fasulle di magia nera, eccetera. Ci teneva molto Valerio a dire, quando lui citava nelle opere di Aimeric delle opere di magia, beh, quelle opere, uno, esistevano, due, lui le aveva anche cercate sul mercato, anche a costi piuttosto elevati, proprio per dire, guardate, nei miei romanzi non ci sono, c'è l'invenzione immaginaria della storia, ma molto di quello che viene trattato in maniera realistica. Adesso non sto a dirvi tutti gli altri saggi, ci tengo a dire questo, ecco, proprio per non confondere Valerio. È difficile da inquadrare nell'Accademia Valerio, forse lui stesso non lo voleva, non l'avrebbe voluto, non voleva essere inquadrato con un'etichetta. Io mi permetto solo di polemizzare nell'introduzione con la New Italian Epic, che ha cercato di appropriarsi a tutti i costi di Valerio, ma Valerio non si ritiene. Citiamo un'intervista in cui lui dice chiaramente: quella è un'invenzione di altri, se qualcuno vuole considerarmi tale, ma io non sono quella roba lì. Ma Valerio non si sarebbe sentito di nessuna etichetta. Era questo un aspetto della sua... Lui era un militante letterario e politico, ma non aveva bisogno di etichette per farsi riconoscere. Poi, aggiungo un'ultima cosa, probabilmente gli sarebbe andata benissimo la citazione di Theodore Sturgeon, uno dei massimi autori di fantascienza degli anni 50 e 60, che aveva affermato, è vero, il 90%, perché... dentro la difesa della paraletteratura c'è da parte di Valerio anche la conoscenza del fatto che tanta è schifezza e quindi bisogna separare ciò che è buono da ciò che è male, ma d'altra parte, come Sturgeon penserebbe, avrebbe detto, è vero che il 90% della fantascienza fa schifo, ma d'altra parte il 90% di tutto fa schifo. Allora, vabbè, aggiungo qualcosa io. Intanto benvenuti, buonasera a tutti. E mi fa molto piacere essere qui perché avevo bucato la cosa di Bologna e alla fine mi dispiace sempre che il pubblico e chi parla di Valerio siano, perché così accade, non è che la cosa sia deliberata, ma siano soprattutto uomini, studiosi uomini, lettori uomini, critici uomini, perché forse, devo tenerlo più vicino, perché forse c'è in effetti... almeno è intuita nel suo modo di scrivere una caratteristica un pochino più maschile, però in realtà anche questo è vero solo fino a un certo punto. Valerio ha pubblicato il primo Aimeric, noi siamo nati letterariamente assieme, ha pubblicato il primo Aimeric nel 94 e avevo vinto il premio Rana nel 93 e mi ricordo che avevo, cioè il suo dattiloscritto giaceva in redazione e non sapevano bene cosa farne, perché a differenza del mio romanzo, che sì, poteva anche avere delle caratteristiche di novità, però era facilmente codificabile come fantascienza, Emmerich non si capiva bene dove collocarlo. Cioè questa resistenza alle etichette, che è la cosa che hai citato tu, Sandro, ora, in realtà compare già all'origine della carriera di Valero, è il suo modo di scrivere, ed è una difficoltà che discende non solo dal fatto che Valero mette assieme elementi che appartengono al fantastico, ma anche a una ci sono tantissimi elementi scientifici, cioè propriamente strettamente legati alla fantascienza alla tecnologia come motore, come spunto scatenante dell'immaginario, per cui scienza e immaginazione vanno costantemente assieme. Ma non ce n'è uno solo di questi elementi, e poi c'è anche una componente più carsica, che allora io non avevo messo a fuoco, ma anche perché non l'avevo ancora letto, poi l'ho messo a fuoco appena il romanzo è uscito, e cioè l'altra difficoltà era creata dal fatto che Valerio quella di Valerio è sempre stata letteratura, nel senso paraletteratura, bisognerà a un certo punto inventarsi un altro termine, perché ha comunque questo prefisso para davanti alla letteratura ha un valore riduttivo. In realtà quello che accade nel caso dei romanzi di Valerio Evangelisti, ma anche nel caso dei saggi, è che c'è un'estrema cura letteraria, un'estrema cura linguistica, non ci sono scelte lessicali fatte a caso, c'è una volontà di costruire un universo, che sia un universo assolutamente immaginifico, ma che rispetti il gusto del lettore, le aspettative del lettore, rispetto un po' alla lingua italiana, mi viene di dire, e insomma tutti gli effetti, quello che Valero scrive è catalogabile come letteratura, non è inferiore a un testo mainstream, non è inferiore a un'opera che viene inserita, un romanzo che viene inserito in collane bianche, come dicono i francesi. Per cui questa cosa qui destava un po' di preoccupazione, ha smesso immediatamente di destarla quando, una volta pubblicato il libro ha avuto un successo enorme. E Valerio a quel punto si è imposto come un profilo che poteva essere un profilo di riferimento. Questa caratteristica di diventare un profilo di riferimento dipende in parte da come come sono costruite le sue narrazioni, che sono sempre narrazioni fortemente ibridate. Appunto, trovate l'elemento fantastico, trovate l'espediente, gli espedienti fantascientifici, le astronavi, il viaggio nel tempo e via dicendo. Però trovate anche una solidità storica che è importantissima, cioè Valerio prima, e questo viene fuori molto bene anche nella tua introduzione e in altri saggi, Valerio prima di essere uno scrittore di fantascienza era uno storico. Quando ci siamo conosciuti, insomma, quando erano ancora i primi romanzi, io mi ricordo che mi metteva in mano questi saggi, gli estratti di saggi storici che avevo pubblicato in università nel contesto accademico, e qua arriviamo anche a quello che dicevi tu, cioè, sì, Valero è sempre stato molto a disagio nel contesto accademico. Una delle cose che mi diceva è che, cioè, la cosa che non va in te è che lavori all'università per cui c'era questo desiderio di tirarsi fuori da un tipo di critica, da un tipo di atteggiamento rispetto alla letteratura che era ritenuto, secondo me anche abbastanza giustamente, sebbene non si possa fare di tutte le erbe un fascio, un atteggiamento che era ritenuto intellettuale, istituzionale, poco militante. E invece non è possibile, io faccio molta fatica a parlare di Valerio al passato, perché credo che sia una presenza non cancellabile, insomma non finisce con la sua morte, quello che ha da dire. Poi magari aggiungo una cosa anche su questo. Nel caso di Valerio accade quello che anch'io ho sempre voluto dalla letteratura, cioè che quello che scrive non è diverso da quello che fa. C'è una coesione perfetta tra la volontà di prendere una posizione politica e il racconto immaginifico di come è nata questa presa di posizione politica. E c'è tutta una ricerca storica dietro che rende solida questa appartenenza, per cui non è uno schieramento emotivo. Non è soltanto quello, c'è molta passione, ma non è uno schieramento emotivo, è uno schieramento estremamente circostanziato. Che va collocato dentro una cornice storica importante, cioè il saggio di Nico Gallo, sono tutti molto molto interessanti e perlustrano le sfaccettature di questo profilo così complicato, però io ho amato molto il saggio di Nico Gallo, che fa questa ricostruzione, che veramente fa quello che a Valerio sarebbe piaciuto, cioè integra questo profilo dentro una serie di uno sviluppo storico che ha visto cambiare l'Italia molto profondamente, ha visto la lotta politica, ma ha visto anche l'allontanamento, lo sfaldamento, la perdita di valori importanti, la necessità di diventare in qualche modo carsici, come quelli che erano movimentisti dovevano diventare carsici, non potevano, dovevano comunque scorporarsi e allontanarsi dalle istituzioni. Allora tutta questa cosa Valerio la descrive, la racconta, ci si inserisce e con queste due modalità, la saggistica, che è una saggistica mai ambigua, e questa è una cosa che io ho adorato, e che è una saggistica che si coniuga, che si combina con la volontà di fare promozione culturale. Cioè Carmilla nasce a questo, cioè la fantascienza ha sempre avuto fanzine, si è sempre coagulata in pubblicazioni amatoriali anche quando non c'era il web e si facevano le cose ciclostilate, e poi c'era Shake appunto che faceva cose un pochino più elaborate, e per cui questa cosa è una consuetudine che c'è nel mondo della fantascienza, e ho avuto questa idea di sfruttare la consuetudine che c'era, la lettura di pubblicazioni nate proprio dalla base, per fare dei discorsi che sono discorsi estremamente diretti, estremamente radicali, e ciò che li rende interessanti anche per chi radicale non è, che ci può anche stare, però i discorsi restano interessanti perché presentano una ricostruzione, una consapevolezza storica e politica veramente molto, molto profonda. Ha ragione, anche a me è piaciuta molto l'epigrafe che hai scelto. Perché ha ragione Valerio, cioè la complessità scopri dopo, nel senso che i romanzi vengono, soprattutto i romanzi, vengono deliberatamente presentati dagli editori come romanzi di mercato, insomma, romanzi popolari, con copertine popolari, con un vestito grafico che deve indurre un lettore non troppo capace, no? Come si intende il lettore di fantascienza in Italia, a acquistarli, perché sono romanzi facili. Poi uno li apre questi romanzi e scopre che facili non sono per nulla. La complessità discende un po' da tutti gli elementi che ho detto, e forse ne possiamo aggiungere due, poi mi taccio. Uno è comunque la capacità di ibridare generi diversi, perché tu dici non è New Italian Epic, il contrario, non è neanche New Weird, è una forzatura comunque cercare di inserire le storie di Valerio dentro un'etichetta, e non gli sarebbe piaciuto, non gli piacerebbe, non ha mai fatto, lui ha sempre negato qualunque appartenenza, non vedo perché lo dobbiamo fare noi. E l'altra questione, l'altra complessità è nelle caratteristiche dei personaggi, che sono, insomma, io ho cominciato a scrivere fantascienza negli anni 90, ho cominciato a studiarla ancora prima, è molto insolito che nella fantascienza ci siano personaggi, in quella italiana poi non ne parliamo, che ci siano personaggi costruiti con questa complessità, che ci sia un Emmerich che presenta molti lati oscuri, che sbaglia, che fallisce, che però comunque viene percepito come un eroe. E poi ci sono i personaggi femminili, che anche lì, cioè, io penso davvero che la narrativa di Valerio sia molto maschile, ma ci sono personaggi femminili di straordinaria complessità, cioè personaggi femminili che sempre fanno perno sulle debolezze degli uomini, e però anche loro sono Miriam, ma sono Lilith, quindi anche la Luna Nera, e c'è anche questo profondo percepisci questo profondo rispetto dello scrittore Valerio Evangelisti, maschio, che di fronte alla questa incertezza e questo rispetto nella costruzione dei personaggi femminili. Ultima cosa, poi basta, veramente questa è l'ultima, e si lega sempre ai personaggi, c'è una fortissima tendenza alla coralità, che anche quella è complicatissima da gestire, cioè è molto semplice e molto tradizionale nella fantascienza costruire un eroe, un nemico, Anakin e Darth Vader, comunque c'è sempre questa opposizione, è semplificata, è semplice, si può gestire molto bene, Valerio non fa mai questa cosa qua. Sono sempre gruppi che si muovono, è sempre una mobilitazione collettiva, e questa cosa diventa molto evidente nei romanzi sulla rivoluzione messicana, dove non c'è un protagonista, cioè poi lui stesso mi pare che l'abbia detto a qualcuno che glielo chiedeva, ha detto i miei lettori rimangono perplessi perché non trovano il protagonista, e io rispondo sempre la rivoluzione è il protagonista, per cui l'eroe è la rivoluzione. Ecco. Non so. Nicoletta ha ricordato l'importanza dei saggetti, come li chiamava Valerio Evangelisti, quelli che poi sono stati raccolti in Le strade di Alphaville, dove veramente viene fuori un po' tutto quello di extra narrativo che sono gli interessi, la storia. Giustamente ricordavate la formazione di storico di Valerio Evangelisti, che ha avuto addirittura i complimenti di Hobsbawm per i suoi lavori, per i suoi saggi storici, e poi i saggi letterari, la sua passione, per esempio, molto non so come definirla, interessante per un, in fondo, un comunista come lui, uno che non rinnegava le radici comunque libertarie del comunismo di Emiliano Romagnolo, ma la sua passione per gli anarchici individualisti. Ci sono in questa raccolta di saggi dei capitoli, secondo me, veramente belli, emozionanti, che lui dedica a personaggi come Zodaxa, Albert Libertad, insomma, queste figure di anarchici individualisti che avevano comunque questa portata culturale nichilista, insomma, molto forte. Ecco, cerco di venire al punto. Ne volevo chiedere prima a Sandro e poi magari a Nicoletta. Appunto, abbiamo ricordato la sua opera di fantascienza e i saggi. Qual è il raccordo tra saggi, opere di fantascienza e invece i filoni di narrativa storico-sociale, quello dedicato al sindacalismo rivoluzionario americano e quello del movimento operaio, proletario, rivoluzionario italiano? Comincio io. Intanto lo sguardo di Valerio è veramente a 360 gradi, sia sui movimenti che sulla storia dei movimenti. Ricordava giustamente Marc anche la funzione degli anarchici, ma ancora molto grande l'attenzione di Valerio, per esempio, sulla sinistra comunista, che lui non condivideva. Era una cosa su cui ogni tanto litigavamo, ma che lui riconosceva nella tradizione comunista e a cui riconosceva comunque dignità anche maggiore di quella che poteva riconoscere ad altre sinistre più riconosciute, intendiamo la sinistra del vecchio PC togliattiano e cose di questo genere. Sicuramente non era un filo stalinista Valerio, ma anche in questo non amava le etichette, quindi era aperto a tutti quei movimenti dal basso alternativi che ponessero la questione del superamento dell'esistente, sia sul piano materiale che su quello dell'immaginario, perché la grande battaglia di Valerio è una battaglia sull'immaginario. Ma detto così, e qui mi permetto di fare una nota collettiva, potrebbe essere anche l'intellettuale che si è impegnato nella letteratura, eccetera. No, Valerio era un organizzatore. Prima parlavo di Carmilla Online, che ha compiuto 20 anni ancora prima l'esperienza di Carmilla Cartacea, di cui Nicoletta e altri hanno fatto parte. Ma per quanto riguarda Carmilla Online, era Valerio che nessuno è entrato tranne un redattore. Tutti i redattori sono entrati per cooptazione da parte di Valerio. Valerio sceglieva coloro che gli servivano o gli sembravano adatti all'interno di quel modello di organizzazione di una battaglia culturale. Ricordo sempre che su Carmilla Online è scritto cultura, letteratura, immaginario d'opposizione, e nell'immaginario, noi l'abbiamo ricordato più volte, ci sta il politico, cioè rovesciando completamente quel vecchio discorso che l'immaginario è parte del politico. Il politico fa parte dell'immaginario, perché a secondo di come noi siamo capaci di criticare questo sistema e di immaginare un altro mondo, da questo deriverà anche la nostra capacità politica di interpretare, criticare e possibilmente trasformare il mondo. Questo impegno militante di Valerio si manifestava anche attraverso queste cose. Negli anni molta gente è venuta, se n'è andata, eccetera. Non ci interessa qui farla. C'è un saggio che ricorda la storia di Carmilla dal cartaceo fino a Carmilla Online, ma non sta lì a ricostruire punto su punto chi è venuto, chi è andato. Per Valerio tutti erano importanti, nessuno era indispensabile. C'era una macchina, in qualche modo, se vogliamo, anonima, quella che andava avanti, nella critica dell'esistente e del suo immaginario. Quindi le due cose sono difficilmente divisibili. Per quanto riguarda la storia e i romanzi di Valerio, sono fortemente intrecciati. Si dice che di Valerio esistano più cicli, no? Esiste il ciclo di Aymeri, che è il più lungo, sono 13 romanzi, esiste il ciclo americano fatto di 3 romanzi, il ciclo messicano di cui parlava Nicoletta che è fatto di 2, il ciclo della storia italiana dalla seconda metà dell'Ottocento fino alla delusione della Resistenza, fatta dai 3 romanzi del Sole e dell'Avvenire, era cominciato il ciclo di 2 romanzi della Repubblica Romana e degli anni a seguire, e poi anche un cosiddetto ciclo del metallo che riguarda altre cose a latere. In realtà, giustamente, ha detto recentemente Sebastiani, proprio in un'intervista su Rai 3, possiamo parlare di un unico grande ciclo, perché attraverso questo ciclo noi vediamo un po' la storia delle contraddizioni, delle lotte di classe, dalla nascita, dall'avvento del capitalismo fino ai nostri giorni e oltre. Perché non dimentichiamo che i romanzi di Aymer si svolgono sempre su 3 piani. Uno, in quello dell'età della vita di Nicolaus Aymerich, inquisitore realmente esistito e di fatti colui che ha steso il primo manuale dell'Inquisizione nel 1300, un piano molto lontano che arriva fino al 32esimo secolo e un piano intermedio che non è mai quello del presente effettivo. Perché spesso noi abbiamo romanzi in cui abbiamo un passato, un presente, un futuro, ma il presente di Valerio non è mai il nostro presente, perché tutto sommato, io credo, proprio ci abbiamo pensato in questo periodo lungo, il presente fosse la cosa che gli interessava di meno, non per staccare i piedi dal suolo e volare chissà cosa, ma perché questo presente va superato, e forse si sta superando da solo, quindi è implicito nella struttura dei romanzi questa cosa. Un'ultima cosa, lui rivendicava il lavoro come storico e guarda caso si affiancava, io ho curato il saggio che fa un paragone tra Valerio e Emilio Salgari, due autori apparentemente così distanti eppure per molti versi simili, e ci dice Valerio: no, guardate che Salgari era uno che studiava e io studio e cerco di rendere tutto credibile. Il lettore, una frase del genere avrebbe detta Salgari, lui dice: il lettore con i miei romanzi ha fatto il giro del mondo della storia. L'avrebbe potuto dire anche Emilio Salgari, il quale, esattamente come Valerio, studiava, lo si dice anche nel saggio, no? Lo dice anche Valerio, dice: spesso i critici hanno trattato Salgari come un'altra volta, come un autore inferiore, minore, no? Eppure c'è tanta conoscenza, ci sono tanti dati, e a me ha stupito molto una cosa recente, uno degli scrittori indiani recenti più famosi, Amitabh Ghosh, che fa partire molte delle sue storie del passato nell'India, nel tentativo di ricostruire anche lì la dominazione coloniale, i suoi misfatti, proprio dalle Sundarbans, questa grande, la più grande giungla di mangrovie che c'è al mondo e si trova alle foci del Gange. E proprio dalle Sundarbans nascono i primi romanzi di Salgari, nella seconda metà dell'Ottocento, in cui già aveva individuato, e Amitav Ghosh dice che lì sono avvenuti misfatti e cose. Salgari, senza mai essersi spostato da casa sua, anche Valerio non era uno, sì, Valerio è stato in Nicaragua, è stato in Messico, ma negli ultimi anni per motivi di salute non aveva certo viaggiato, era riuscito a individuare, studiando, guardando, eccetera, un'area oggi direi di crisi attraverso cui analizzare l'imperialismo inglese dell'Ottocento. E quindi è vero quello che diceva Nicoletta, per Valerio c'era la buona letteratura, la cattiva letteratura, insomma, no? Poi il termine paraletteratura noi l'abbiamo usato perché era il termine che lui utilizzava, però ecco, per Valerio era buona e cattiva letteratura. E cosa diceva a proposito della critica alla letteratura mainstream? Diceva proprio in una cosa che viene citata: chi si ricorderà domani o dopodomani dell'attuale vincitore del premio Strega? Però a distanza di 100 anni ci ricordiamo ancora tutti di Salgari e di Luigi Motta. E quindi questo dimostra la vicinanza tra quel tipo di letteratura, la memoria, la funzione che ha avuto nello sviluppare un certo tipo di immaginario. E questo lui rivendicava un po' per sé. All'interno di un contesto in cui c'è questo voler superare i limiti della critica culturale che la sinistra ha fatto per anni. Chi è appartenuto negli anni 60-70 sentiva questo bisogno. Devo dire che una cosa ci univa, ecco, ricordo personale unico, indirettamente. Mentre Valerio dava vita a Carmilla Online proprio per mettere insieme fantascienza, letteratura, discorso politico, a Torino un piccolo gruppo di estremisti, tra i quali il sottoscritto, dava vita alla prima videorivista di fantascienza in cui si cercava di fare la stessa cosa, no? In cui si cercava di usare la fantascienza, il fantastico, il cinema dell'horror per parlare delle contraddizioni della società e dell'immaginario presente. Quindi cosa voglio dire? Rivendico qualche merito? No. Ma sicuramente c'è una cultura, c'è un substrato di rifiuto della cultura accademica, della cultura ufficiale, della cultura mainstream, che è stata tipica di chi ha vissuto in gioventù i movimenti degli anni 60 e 70, che ha poi dato come risultato Valerio e tutte le considerazioni che ne sono conseguite. Quindi separare lo studio, la storia dalla narrazione diventa impossibile nel caso di Valerio. Sì, sì, no, infatti non posso aggiungere molto a quello che tu hai detto, e in realtà non vedo nessuna scollatura tra le diverse tipologie di narrativa con le quali Valero si è misurato e la produzione più critica, che anche il termine critica non è adatto. Valero fa un'operazione di critica divulgativa che secondo me è unica in Italia, nel senso che in Italia esiste la critica letteraria che diventa sempre più astrusa e meno affidabile, che spesso è di natura accademica, e poi dopo esistono delle riflessioni che Valerio è bravissimo a fare, che ancora adesso, tornando indietro, perché è possibile, visto che Carmilla Online, ripercorrendo le sue pubblicazioni su Carmilla, ti rendi conto che in realtà quello che Valerio fa nei testi, negli articoli saggistici, è rendere accessibile una quantità, un orizzonte culturale che normalmente è collocato fuori dalla portata di quello che si intende essere il lettore di fantascienza o il lettore di letteratura popolare o il lettore non accademico, nel senso che un'altra cosa bella di questo volume, ci pensavo prima, è che è un volume coltissimo realizzato non da accademici, l'unico Alberto che comunque è un contrattista, sì, nel senso, sì, cioè sì, è sempre un po' fuori da questo orizzonte che sta diventando sempre più asfittico e sempre più stitico, e ve lo dico parlando dall'interno. Forse alle considerazioni che facevi tu ne aggiungerei soltanto un paio, e ci metto intorno anche una cornice storico-culturale, cioè faccio notare delle differenze, nel senso che Valerio è uno dei pochi scrittori di fantascienza italiana, ma anche uno dei pochi scrittori, maschile inclusivo, capace di lavorare su un orizzonte internazionale, cioè consapevole di quello che succede all'estero, certo, primariamente nel suo genere letterario, ma consapevole di quello che succede all'estero, nel cinema, nel graphic novel, nella fantascienza, ma anche nella narrativa ufficiale, e che si misura bene non solo con i francesi, ma anche con gli americani. L'operazione che fa, dico gli americani non perché siano migliori in assoluto, ma perché la tradizione della fantascienza è più consolidata, è più antica e ha questa specie di fioritura molto politica intorno agli anni 70. E lì quello che Valerio fa in Italia come unicum, perché non, cioè, noi altri gli siamo andati appresso, ci abbiamo sperato di essere cooptati, oppure l'abbiamo imitato, oppure abbiamo, e ancora adesso stiamo cercando di ricostruire un percorso che sia affine al suo, e però qua in Italia lo faceva lui, punto. Negli Stati Uniti è stato un momento in cui nell'ambito della fantascienza lo facevano un po' tutti, cioè chi scriveva era anche molto prodigo di dichiarazioni e prendeva una posizione politica molto precisa, e soprattutto questo è stato vero sia nell'ambito dei queer studies, delle scritture legate alle realtà omosessuali afroamericani, Octavia Butler e le femministe. Cioè il femminismo ha avuto un impulso fortissimo nell'ambito della fantascienza con personaggi come Joanna Russ, che adesso ci siamo completamente dimenticati, però il suo testo è stato scritto negli Stati Uniti, pubblicato nell'83 se non sbaglio, è stato pubblicato in italiano adesso, per la prima volta, che anche lì cioè, ti viene da riflettere. Ecco. Allora lì trovi questi profili che fanno esattamente quello che fa Valerio, cioè in altri modi evidentemente, però anche per questi profili l'immaginario è politico e deve essere, i due elementi devono essere assolutamente integrati, devono essere raccontati, possono, devono essere raccontati in romanzi, possono essere spiegati nella scrittura saggistica, ma è, cioè le due cose sono assolutamente in osmosi, per cui io non vedo, è giusto anche quello che dicevi tu, nei vari cicli che compongono la produzione narrativa di Valerio, ci sono sempre i medesimi interessi, sono un unico romanzo, come accade per i più grandi scrittori, che è caratterizzato da questo interesse costante per la dinamica del conflitto. La dinamica del conflitto implica un'analisi delle forme di potere, inevitabilmente, che sicuramente non è un aspetto positivo che ci sia necessità costantemente di analizzare una disparità in termini di potere, però anche un evento positivo nel senso che è la dinamica del cambiamento. Tutto cambia attraverso la modalità del conflitto sociale, del conflitto culturale e della politica che va assieme a questo conflitto. La generazione di quelli della mia età, insomma, ha visto cambiare tanto le cose da questo punto di vista, nel senso, nei termini del coinvolgimento nella lotta sociale. Poi alcuni sono rimasti dentro, altri invece hanno subito un'involuzione e si sono integrati in qualche misura. Valerio ha fatto, rispetto a questa condizione, a questo cambiamento, ha fatto e fa, ha la funzione di punto di riferimento, almeno per me è così, nel senso, ma credo che lo sia per molti. Che non vuol dire, questo secondo me è importante, che non vuol dire essere un'icona. Cioè, tu dicevi prima, Valerio non ha mai voluto essere un'icona e appunto, ma anche perché essere un'icona come dire, invoca l'iconoclastia, che non mi pare sia una bella cosa. Per cui, come dire, forse lo dobbiamo semplicemente usare e forse è interessante vedere quello che sta succedendo adesso, cioè a così poco tempo dalla scomparsa fisica di Valerio. Comunque quello che lui ha fatto funziona da innesco di riflessione e di dinamica sociale, che mi sembra una cosa, è generativo, in qualche modo è generativo, la sua scrittura è generativa e continua a produrre una quantità di riflessioni che ci saranno utili, e ci sono già utili nel costruire una forma di relazione un pochino migliore. Poi prima parlavi un'ultima cosa che non c'entra niente, ma mi sono dimenticata di dirla prima, parlavi il presente non è il nostro presente, certo, perché comunque il presente è in cambiamento. Per cui non riesce ad afferrarlo, per cui un conto è ricostruire il passato, un altro conto ancora è immaginare un futuro, ma comunque lo immagini e lo costruisci tu, il presente ti sfugge, è un'entità fluida, e questa è una delle cose che mi piacciono di più delle storie di Valerio. Sì. È uno sguardo militante sul tempo il suo. Ah sì, giusto. Volevo dire qualcosa a partire dalle vostre sollecitazioni. Percorsi carsici, la domanda di come portare nelle mani del lettore comune l'immaginario, i contenuti, le emozioni di un'esperienza rivoluzionaria, di un tentativo di trasformazione che è finito. Ecco, al riguardo a me viene in mente una figura come quella di Traven. Traven fa esattamente questa cosa. Traven è un rivoluzionario tedesco che è riuscito a scampare, era stato condannato a morte, per caso è riuscito a trasferirsi. Con questo pseudonimo che proteggerà in ogni modo, tanto che la sua vera identità sarà rivelata solo dopo la sua morte, porta nelle mani del lettore nordamericano, ma poi anche di quello italiano, perché i suoi romanzi vengono tradotti da Longanesi con grosse tirature in Italia negli anni 50, quelli che erano i contenuti della rivoluzione tedesca e della rivoluzione messicana, perché ci sono i suoi racconti sul Messico. Il dramma dell'emigrazione clandestina, un libro come La nave morta, tu citavi la nave corsara di Evangelisti, ma c'è La nave morta di Traven, è un testo che viene utilizzato ancora adesso per scrivere volantini sull'immigrazione clandestina. Ecco, è un esempio di non è stato spesso letto in questa maniera, ma secondo me Traven voleva fare esattamente questa cosa. Cioè, come faccio a continuare l'intenzione che ha riempito la mia vita e comunicare con un pubblico letterario del tutto diverso da quello che era stato il suo ambiente e che solo a sentir parlare di comunismo gli rizzava, no? E nella maniera in cui ha fatto e sono diventati poi dei film, insomma, un segreto ben custodito di un'intenzione calda e forte che è poi quella di la stessa, secondo me, di Valero. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire riguardo al New Italian Epic, di cui io fortunatamente non mi sono mai occupato perché c'era da pulire il pavimento della Calusca e tante altre cose, solo uno sprazzo. Cos'è che non funziona, secondo me, nei tomoni discurati su Mussolini? Il fatto che, al di là di questioni di stile, di lunghezza, che quelle sono opinioni, il contenuto storico sono le stesse stupidaggini che si trovano nei manuali di storia per le scuole medie. Questo vuol dire che per fare quell'operazione di cui avete parlato bene bisogna avere un punto di vista storico, un radicamento nella controstoria, nella storia sotterranea, in quelle potenzialità che sono state tarpate dalla sconfitta, senza il quale si fa il centone, sì, si può mettere in forma romanzesca una vicenda storica, ma se tu devi dire le stesse cose che ti dice qualsiasi storico, puoi anche fare dell'altro. Questo non vuol dire che il contenuto sia prevalente rispetto alla forma, no, piuttosto la forma narrativa ti dà delle possibilità che il saggio storico non ti dà, perché tu ti puoi immaginare un dialogo che non potrai mai documentare sul piano storico, o delle situazioni possibili che non si sono date storicamente, ma nel tuo bagaglio degli attrezzi devi essere ben ferrato sulla storia e quindi avere tratto un alimento che non viene dalla storiografia accademica, che viene dall'esperienza del movimento, per la loro capacità di riscrivere la storia, di riportare in superficie quella storia negata, sconfitta, ma potente che ha costituito il Novecento. Non è un caso che la vera storia degli Stati Uniti d'America emerge in parallelo con le vicende del movimento dopo il 68 americano, che la rivoluzione tedesca riemerge dopo il 68, la più grossa rivoluzione del continente europeo, che era completamente scomparsa e che viene riattivata in questo approccio, che poi è lo stesso che poi c'è dentro Benjamin, tutto quello che è, sta la potenzialità, ma anche la necessità di un approccio di questo tipo a questa forma di scrittura, che effettivamente può andare molto, molto al di là dei circuiti in cui oggi riescono a viaggiare le produzioni propriamente d'analisi teoriche, eccetera. Quindi però ci vuole un non solo per necessità di obiettività, no, ma proprio perché tu attraverso quella maniera, che poi se la copertina è fatta nella maniera accattivante va benissimo, no, ma non è quello il problema. L'importante è che il lettore poi alla fine abbia letto qualche cosa di importante che eventualmente non conosceva, proprio perché fa parte di quella dimensione sconfitta e nascosta di quel suo presente del quale lui stesso è stato privato nelle sue potenziali di divenire, perché la storia è storia di conflitti, di lotte, ogni tanto si vince, per lo più si perde, quindi gli effetti sono anche di scomparsa degli attori storici effettivi, delle vicende effettivamente svoltesi. L'ultima cosa che volevo dire consta di due, non sono appunti critici, ma possibilità eventualmente di sviluppare ulteriormente. Allora, il lavoro di progetto memoria della rivista di storiografia militante animata da Valerio potrebbe essere sviluppato ulteriormente, secondo me. Ci sono dei riferimenti, però un qualche cosa di più sistematico, informativo, comunque su quella parte dell'attività e sull'attività probabilmente militante di evangelisti potrebbe essere utile tanto non è stato stampato, quindi se anche ne è fatto un'altra edizione aumentata è meglio ancora. Questa è la prima cosa. La seconda, a proposito, perché è molto molto efficace secondo me, è nell'introduzione la descrizione del panorama culturale italiano degli anni 50 fin poi a salire verso i 60 e i 70, laddove si parla dello sviluppo di una nuova fantascienza, di un nuovo approccio critico alla fantascienza, viene citata la rivista Un'ambigua Utopia e il lavoro di Diego Gabutti, che effettivamente è stato molto importante questo lavoro. Tra l'altro, secondo me, non soltanto il libro Fantascienza e Comunismo, ma anche quell'enciclopedia della fantascienza che apparve a puntate su Linus e che tra l'altro meriterebbe di essere rieditata, che lì, essendo molto più ampio lo spazio, lui ci è andato dentro e insomma, non si parla invece di due esperienze anch'esse secondo me molto, molto interessanti, e che sono Robota Nervosa e Apocalisse. Due esempi di uso critico della fantascienza, critico innovativo, fortemente radicato in una problematica sociale trasformativa, che dagli stessi aveva avuto un corrispettivo sul piano del fumetto. Infatti loro fanno sia fumetti, critica del fumetto, basta con questi fumetti che sono sempre delle balle alla fine, cioè delle storie da niente, e lo stesso disegno. Ecco. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto sapere se Valerio conosceva queste esperienze, che sono entrambi milanesi e afferenti a quel giro rispetto al quale tu hai detto che aveva attenzione, ma insomma gli parevano anche robe un po' strane. Queste, più strane di questi ce ne sono pochi. in giro. Però appunto, ecco, l'ultima cosa proprio, lo stesso discorso secondo me vale sul terreno del romanzo poliziesco, del noir. Perché Manchette è così forte? Non solo perché scrive bene, ma perché aveva delle idee e un radicamento nelle vicende del movimento francese dopo il 68, che è lo stesso, però sono anche altri dei nuovi autori. Dopodiché ci sta anche che a un certo punto è anche non è soltanto una scelta di comunicazione a un pubblico più ampio, è anche una necessità pratica, cioè questi qui hanno bisogno di mangiare e si sono messi a scrivere l'unico genere che in quel momento nell'editoria francese veniva accettato, no? Ecco, ma non è questo, è che comunque facendo questa cosa ci ficcavano dentro, ma non in maniera pretestuosa, delle perle, delle vere e proprie perle di riflessione sul senso della storia contemporanea. Basta. Beh, intanto parto dalla fine. Nell'introduzione non si vuole fare una storia di tutti gli aspetti, si traccia solo un breve quadro per dire quando comincia una fantascienza critica in Italia. E io la situo con Futuro, la prima rivista che esce con pochi numeri, però dico, quella rivista lì era inadeguata perché viaggiava ancora sulle corde culturaliste del vecchio PC, cioè di tutto quell'ambiente culturale di cui la nascente controcultura, chiamiamola così, è dovuto liberarsi. Da Pasolini a Moravia, passando per gli autori che venivano, per esempio in Futuro escono 5-6 numeri, in fondo c'era sempre un'intervista ad uno scrittore famoso sulla fantascienza, ma uno era Vittorini, un altro era Soldati, cioè persone che con la fantascienza non avevano nulla a che fare. Quando nascono poi, da questo punto di vista, sia un'ambigua utopia che il lavoro di Gabutti, insomma, si è già scelto di viaggiare per altre strade. E Futuro aveva anche quell'allure di fantascienza sociologica americana, che adesso, a dire, non solo quella pubblicata da Futuro, ma anche quella americana di quegli anni lì, da leggere adesso è di una noia spaventosa. Cioè, molto spesso è proprio fantascienza a tema che deve dimostrare una cosa. Non sono le cose di cui ha parlato prima anche Nicoletta, no? In cui il discorso politico è implicito all'interno lì è proprio dichiarato, no? Voglio far vedere l'ingiustizia, però da leggere adesso è insopportabile. Il paragone con Traven ci sta, poi Traven è diventato anche sceneggiatore, è un film, per ricordare a tutti, un film, Il tesoro della Sierra Madre. Quale più spietata critica della ricerca della fortuna attraverso il denaro e l'arricchimento che non Il tesoro della Sierra Madre, in più con la faccia di Humphrey Bogart? È chiaro che c'era più politica lì, in quel film, in anni in cui pure si doveva, non si poteva parlare di altre cose, di rivoluzioni, eccetera, eppure ci riassume, credo, tutto quello che il discorso di Traven, e lo possiamo vedere, no? da questo punto di vista. E quindi credo che queste, certo, Progetto Memoria, su questo sono un po' più in dubbio, perché per Valerio Progetto nel momento stesso in cui Valerio apre Carmilla Cartacea, a cui partecipa Nicoletta, Lucarelli, Progetto Memoria è un progetto chiuso, non funziona più, capito? Non funziona più, perché occorre spostarsi. Anche se era nato con l'intento di mantenere la memoria, già di preservare la memoria dei movimenti di quegli anni ancora prima, però io credo che quando Valerio chiude Progetto Memoria, anche lì per problemi economici eccetera, e apre Carmilla, è proprio perché c'è necessità di fare discorsi nuovi con linguaggi nuovi. E un'ultima cosa, questa capacità di raccontare. Ecco, io non so se Nicoletta è d'accordo, poi magari ci dice. Ecco, Valerio è una scrittura popolare ma non populista, prima cosa. e lui rivendicava per la sua formazione due autori e due romanzi: Alessandro Manzoni con I Promessi Sposi, che a proposito di commovente, interessante e coinvolgente qualcosa sapeva, diceva Valerio, ho letto molte volte quel romanzo da giovane, fa ridere, fa piangere e porta per la prima volta in un romanzo le classi basse, cosa volete di più? E l'altro romanzo era Il Corsaro Nero e quindi Emilio Salgari. Quindi c'è proprio una rivendicazione, anche se parliamo della formazione giovanile di Valerio, di uno stile letterario, di uno stile narrativo che deve coinvolgere, interessare il lettore. E non deve essere una cosa che gli passa sulla testa o uno lo legge e dice è difficile, qualcosa vorrà dire. E non è, scusatemi, nemmeno il giochino postmoderno di Umberto Eco con Il Nome della Rosa, che è un grande romanzo. È super intellettuale. Però è una roba che poi tutti l'hanno comprato e non è quella cosa lì. Il romanzo di Valerio e il tipo di letteratura che lui difende, e la difende anche come letteratura alta, sia ben chiaro, è su un altro piano, un'altra cosa. No, prendo questo, uso questo anche perché... aggiungo soltanto due cose, cioè Manzoni e Salgari avevamo cominciato bene e poi dopo ci siamo un po' persi per strada. Risposto sostanzialmente a tutte le domande, volevo soltanto commentare quello che tu dicevi su Scurati, perché quello è l'esempio lì è perfetto, nel senso che quello che succede sempre nella produzione culturale è che una cosa nuova nasce nelle letterature popolari, dalla voce popolare, nasce dalla base, poi succede che funziona e a quel punto la cultura alta ruba il contenitore e svuota il contenuto. È successo col punk, nel senso che il punk ha dato originale, Courtney Love è il modello delle Spice Girls, che però non hanno più nessun significato politico. E la cosa che fa, l'operazione che fa Valerio è molto consapevole ed è di consapevole appartenenza e vicinanza alla base. Dopodiché arriva Scurati e vende, purtroppo vende. Cioè, e hai ragione tu, non solo quella è la storia ufficiale, ma è la storia più inoffensiva e ci sono pure degli errori. Cioè, per cui è lo svuotamento proprio sistematico del contenuto politico e il mantenimento di un contenitore che peraltro è anche un insulto al pubblico, perché così il pubblico viene turlupinato, cioè gli viene comunque fornito qualcosa che non è quello che si potrebbe aspettare. Poi chi è un lettore o una lettrice un pochino più addestrata riesce a districarsi in questo pasticcio. Chi non lo è, alla fine si forma delle convinzioni che sono totalmente basate sul nulla. Per questo l'operazione che ha fatto Valerio quando ha detto io qua sto e qua voglio restare e voglio che le mie copertine siano così, perché poi dopo lo compra il ragazzotto che magari fa l'istituto tecnico perché vede la copertina di quel tipo lì e impara delle cose, però impara delle cose. Non gli viene venduto un pensiero preconfessionato, gli viene venduto un universo in conflitto e questa cosa qua fa imparare, ecco. Per cui niente, volevo dire solo questo, anche perché me ne devo andare. Però aggiungo ancora una cosa proprio su Scurati, perché è venuto in mente, me ne sono dimenticato. Prego. Ecco, a differenza di Scurati da Valerio, se Valerio avesse fatto il romanzo su Mussolini, sarebbe stato con Mussolini o con un suo gerarca fino alla fine. Cioè, gli eroi di Valerio sono sempre eroi contraddittori, cioè bisogna stare lì, non bisogna fare un primo romanzo come ha fatto Scurati in cui tutto sommato Mussolini poi in fin dei conti non era così scemo, poi dal secondo c'è già il declino perché sono tutti scemi e nel terzo ecco com'è, no? Se tu costruisci un personaggio letterario lo devi far vedere dall'interno, devi fare anche, non che il pubblico deve parteggiare per Mussolini, infatti il bello di Heimerich è che il pubblico sì magari parteggia per Heimerich, poi si rende conto che quello massacra i catari, affonda, ammazza donne e bambini, ne fa di tutti i colori per la sua cosa, quindi apre una contraddizione. Difatti c'è il saggio nell'eroe, un viaggio che inquieta e non consola, ecco. L'eroe di Valerio deve sempre inquietare, mai consolare. Nemmeno consolare attraverso una sconfitta definitiva. Ah, finalmente Mussolini l'abbiamo appeso a testa in giù. Ma cioè, è un personaggio letterario Mussolini, se ci pensi. Però ci va un'altra penna, non quella di Scurati, sennò diventa il giochetto così per vendere in questi anni. Manca, cioè, voglio dire, magari Valerio ne sceglieva uno più contraddittorio ancora, Bombacci, no? Che finisce ammazzato. Avrebbe scritto tutta un'altra storia. Avrebbe scritto tutta un'altra storia, ma non poteva. Cioè, non avrebbe mai fatto. Perché il meccanismo è esattamente quello lì. Quando poi quel meccanismo lì avrà stufato, l'editoria ufficiale pescherà di nuovo dai generi popolari per vedere quello che può non vita. È successo anche alla storia del giallo, la grande fortuna del giallo e del noir. All'inizio era assolutamente dirompente. Poi hanno cominciato a uscire delle robe che non, cioè, che non facevano del male a nessuno, nel senso, non che bisogna per forza fare del male, però non erano problematizzanti. E allora, secondo me, una letteratura di quel tipo, secondo me, non serve. Dopodiché, ognuno è libero di fare quel che gli pare, insomma. Certo. Se non ci sono altre domande, interventi, possiamo anche... Grazie per essere stati qua. Grazie a tutti. Ciao.